24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Salvini, senta, ma lei vuole evitare gli scontri stamattina o se ci stanno fa parte un po' del... No, no. Della mattinata? No, no, anzi, non voglio casini. Stavo valutando se entrare o meno per non avere casini. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato miserabile. Aurelio, vieni! Aurelio, vieni! I sociali sono accorti. Servi dei servi. Mai visto in 20 anni gente che sfascia dei vetri così spessi a pugni. C'erano due ragazze sedute lì. Spero che la condanna. Ecco, sia... ecco. E oggi attenzione perché forse si replica, eh. Cioè non auguriamo niente a nessuno per carità, ma Salvini ha annunciato che oggi torna a Bologna. E questa è la cosa più interessante del fine settimana, perché per il resto, ragazzi. Cioè, oggi prendi la stampa e il titolo della stampa è... Dov'è la stampa? Porca miseria. Legge elettorale verso il rinvio. Ma no! Ma come? L'ottantesima settimana decisiva che si apre oggi. Per la legge elettorale c'è il rinvio. E poi c'è il Toto napolitano, no? Il Toto Quirinale, ormai è partito ufficialmente, perché sapete, cari ascoltatori, che probabilmente a inizio gennaio, questa dovrebbe essere la data, inizio gennaio, poi non è che c'è una data precisa, non è che fa come il Papa, che dice mi dimetto il giorno dopo. Però, insomma, a inizio gennaio Napolitano probabilmente se ne va, e quindi è partito il Toto Quirinale, chi sarà il prossimo, tutti che si defilano subito. Vabbè, insomma, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Devo dire che giornali che sono di una noia mortale: legge elettorale, l'accordo, l'Italicum, Renzi, Berlusconi, Berlusconi che litiga con Fitto, Renzi che molla Berlusconi o sta con Berlusconi, Renzi coi grillini o i grillini che non si mettono con Renzi. Una roba pazzesca, veramente. Da sperare che arrivino i giornali di domani. Già, ma meno male che almeno arriva una persona che ci alzerà il morale. Io lo so, apriamo il Parlamento, dai. Ci solleverà il morale, sono sicuro. Quindi semmai ci vediamo più tardi. Anche perché ve lo dico subito, gustatevelo oggi, perché poi per un po' di mesi ci abbandona, perché il fuso orario non sarà favorevole a noi. È il nostro grandissimo Albertone Forchielli. Come stai, Alberto? Ciao Lino, bene. Dove sei di bello? Sono a Hong Kong. A Hong Kong, da quelle parti, leggo, a Pechino, proprio non proprio, insomma, lì vicino, hanno chiuso le fabbriche. Ma è vero che hanno chiuso le fabbriche per un giorno perché arrivava Obama e volevano fargli vedere il cielo blu di Pechino, senza smog? Sì, ma l'hanno fatto anche durante le Olimpiadi. Capito, che furbi, Che furbi questi cinesi. Perché qua parliamo di cose molto pregnanti, il Quirinale, la legge elettorale. Lì forse fanno l'accordo per diminuire la CO2 nel mondo. È vero questa cosa? Ti risulta? È arrivato Obama? No, non so neanche se è in calendario, ma è praticamente impossibile diminuire fino al 2030, perché per sostenere i tassi di crescita attuali la Cina deve continuare a bruciare carbone almeno fino al 2030, per cui non esiste, sia la Cina che l'India devono bruciare carbone perché non hanno gas, per cui non, e sono i paesi di maggiore crescita, per cui è impossibile un abbattimento delle emissioni possibili. Loro non sono disposti a rischiare la stabilità interna in cambio di un ambiente migliore futuro. Loro dicono: voi avete sporcato tutto fino adesso e adesso tocca a noi, capito, sacrificarci per... Ecco. Quella è una partita impossibile. Vabbè, ma mi sembrava, come dire, visto che noi qua parliamo di cose francamente un po' inutili nel mondo, il Quirinale, la legge elettorale, da una prospettiva mondiale, mi sembrava così una speranza invece vanificata un po'. Non ci sarà, diciamo, questa possibilità, cioè non illudiamoci troppo, ecco, da questo possibile... No, non è neanche calendario. Ah, ecco. Per me non è neanche a calendario, ecco, guarda, appunto. E allora non lo so, leggevo sulla stampa, ma si sa, chissà poi se c'è qualche sorpresa, ma vedremo. Qui Alberto, nella tua Bologna, vicino, adesso sì. Se dico che sei di Bologna ti va bene? Sì, bene. Cioè, bene, sei di Imola, non sei uno di quelli che coi campanili, no, che no, Bologna, no. Bologna, no. No, sono cresciuto a Bologna. Ah, vabbè. E poi dopo mi sono trasferito a Imola più tardi, dopo che ero già laureato. Quindi sei bolognese. Ho questa doppia identità. Adesso sono imolese, però Bologna è la mia città. Bologna è la mia squadra. Adesso questo problema tra la coppina, se è saputo, soffro, no? Perché abbiamo cominciato a litigare. Ma tornate in Serie A, questa è la cosa più importante. Chissà se tornate in Serie A. Vabbè. Una domanda che pensi. Vabbè, lo so. Comunque, vabbè, hai visto Salvini cosa ha combinato la tua Bologna? Oggi ci torna. Tu da che parte stai? Perché la questura dice che non aveva comunicato bene, e visto che lui è tutelato dalla scorta, deve comunicare dove va. E invece, ha rischiato grosso, No, io ho simpatia per Salvini perché l'ho conosciuto da te a Parlamento, però qui ha fatto una figura, capito? Perché la storia che sarebbe andata a visitare i campi rom è sulla cronaca di Bologna ormai da settimane, no? Io vado ai campi rom, io leggo la cronaca di Bologna via iPad, leggo sia Repubblica che il Carlino, che quindi vado dai rom, contro l'idea. Poi dopo è andato là, capito? È scappato con la macchina, capito? Come fosse, capito? Ho capito, ma se no gli tiravano. Lui doveva uscire e cominciare a tirare dei calci, magari perdeva anche un mocassino, rimaneva così, pigliava due cartoni in faccia, capito? 5 giorni di prognosi, però doveva far vedere che aveva, capito? Aveva le palle, lì in macchina con la gente che... Hai capito? Con i Globa che gli stavano lì sul tetto, ha fatto proprio una figuretta. Capito? Ho capito cosa secondo doveva me... fare. Fare una rissa, no, da saloon. Doveva uscire e trattare la gente, cercare a parlare. Poi gli tiravano due cartoni, doveva cercare dei calci, poi magari lo trovavamo sanguinante, senza una scarpa, no, però doveva, capito, un uomo è così, arriva lì, fa il gradasso, 3 settimane, arrivano 4 ragazzini, scappa in macchina, capito, culo, capito? No. Cioè, voglio dire, sai, ecco, anche appunto, stileghisti, la capito? Chiosa, la va chiosa. Dai, Rom, va. Ma cosa succede ogni tanto, Alberto, che ci sono dei beep e ti va via la linea telefonica, no, ci senti? Ma no, io mi capitano solo con te. saranno i cinesi, no. Saranno i cinesi che ci intercettano. Sì, sì. Comunque, insomma, doveva fare un bel rissone da osteria, ecco. Ho capito, ma... Sì, ossia, uscire con dignità dalla macchina e affrontare. Sì, con dignità, ma quello. Con 5, con i punti di sutura, il sangue e la roba. Vabbè. Questi sono gli uomini capito? Gli uomini fanno così, invece i coglioni scappano in macchina, capito? Cioè, voglio dire, scegli chi vuoi essere, capito? Adesso eccolo là, Albertone Forchielli ha sistemato, e dire che è partito dicendo mi è simpatico Salvini, chissà se non ti era simpatico, no? No, non è che con questo mi diventi antipatico, però ha sa fatto... del vigliacco, sa del faccino rosso, capito? Vabbè, comunque oggi torna. Vedi quattro ragazzini no globo, poi magari se esci con dignità ti parlano pure, capito? Voglio dire, poi la tanto pompata sta roba del campo rom, non è che è stata tutti i giorni sulla cronaca di Bologna. Ma guarda che oggi torna, quindi magari ti ascolta e va lì e fa un bel rissone stavolta, non lo so. Guarda, vabbè, ma stavolta... ormai si è bruciato. No, ma oggi se torna ovviamente sarà tutto protetto, tutelato, insomma, non credo che le autorità permettano, le forze dell'ordine, un nuovo round, come dire, di questa vicenda. Ma addirittura qualcuno l'ha accusato di tentato omicidio, perché è fuggito, ma addirittura questa, dai, tentato omicidio, che fai? Una... Ma sì, ma perché questi, no, ma questi ce n'era uno in piedi sul tetto della macchina, sì. In piedi sul cofano, sì. Capito? Era una, beh, sono scene, ma lì poi secondo me è stato Alfano, capito, che cioè? Non potendo dargli due scabuffi in faccia direttamente, gli ha tolto la Digos, sperando che i Rom... facessero giustizia. No, i Rom, i centri sociali. Sì, poi dopo sono intervenuti i centri sociali perché i Rom l'hanno appaltato ai centri sociali, ma lì è stato Alfano che gli ha fatto. È stato un subappalto. Sì. Cioè un subappalto. Un subappalto. Vabbè, comunque... Si fa la vicenda Salvini, ma in realtà oggi sui giornali, peccato tu non puoi leggere i giornali italiani a meno se non in iPad, magari. No, li ho letti, li ho già letti. Hai visto c'è il Toto Quirinale? È partito il Toto Quirinale. Tu sei interessato, se ne parla Hong Kong del Quirinale? No, Hong Kong no, però io lo seguo perché io leggo i giornali prima di tutti, perché io leggo Repubblica alle 4 di mattina, che da me sono le 11, adesso sono più 7, appena esce. No, subito. E allora dai. Confuso perché non si vede, però Toto Quirinale lo seguo. Allora, intanto va detto che il tuo amico Romano Prodi ha fatto oggi una dichiarazione al Corriere della Sera, ha detto: io non ho nessunissima intenzione, scrivetelo, di andare al Quirinale, non me ne frega, non c'è niente da chiarire dopo la vicenda un anno e mezzo fa dei 101 cosiddetti franchi tiratori. Cioè proprio dice: io viaggio per il mondo, vado negli Stati Uniti, vado in giro, non me ne frega niente. Quindi pare si tiri fuori, però insomma. Però vorrei fare un po' con te un giochino sui nomi, hai visto un po' i nomi che girano, no? Per esempio, Veltroni, invece che presidente di uno stato africano. Veltroni, che due maroni. È ancora lì? Cioè, nel senso è a Roma, non lo so. Vabbè, quindi Veltroni mi sembra dove che... Dove li tirano fuori questi qui, capito? Dal Museo delle Cere. No. Metalli che si deve rinnovare. Vabbè, i nomi in realtà sono tutti quelli, non è che c'è un rinnovamento. Non so, Amato, allora, non è che... Amato si è addormentato nella cuccia, non l'ha svegliato, è meglio che lo lasciano lì. Però. Anche lui. È sistemato così. Non lo so, si vocifera che è proprio il momento per una donna. Ieri la presidente della Camera Boldrini ha detto: il paese è pronto per una donna. E quando si parla di donne ce l'abbiamo la Boldrini, anzi te lo faccio sentire, senti un po' la Boldrini. Il paese secondo lei è pronto per un presidente della Repubblica donna? Ma io penso che da tempo il paese è in molte occasioni più avanti della politica. Nel nostro paese ci sono tante donne autorevoli che hanno delle storie veramente significative, e dunque è giusto che anche queste donne possano essere considerate. Vabbè, le donne, la quota rosa. La Boldrini tra l'altro è una di quelle per cui si vocifera, non so. Boldrini, piacerebbe? Forchielli? Io sono molto quel buonismo di sinistra della Boldrini, lo trovo veramente insopportabile. Addirittura. Se è una roba passata. Però c'è allora c'è. Paese deve andare oltre. Deve andare oltre. È in politica da 2 anni, però. La Finocchiaro, la Finocchiaro se ne parla. Sì, raglia peggio di un somaro, no. Capito? Anche quella. No. No, dai, adesso. Ancora. Mettiamo Baggio, non so, Totti, più rappresentativi. Cioè, Presidente della Repubblica, ancora. Baggio o Totti, ma dai. Sì, ma sì. sì, sono più rappresentativi. Peraltro, se metti Totti, se metti Totti, ti immagini i laziali, i tifosi laziali non sarebbero molto contenti. Insomma, divideremmo già a metà Roma. E non lo so, chi, la Pinotti come ministro della difesa è un'altra donna di cui si dice potrebbe essere. È da una vita. Cioè, è chiarissimo che Renzi vuole una donna e la vuole giovane, ma deve avere oltre 50 anni, per cui la Pinotti è il candidato più probabile, anche se la Pinotti coglioni ce l'ha già rotti, hai capito? Ormai sono mesi che ce l'ha già, però è da tanto che pensiamo che la Pinotti sia la più papabile. Me le stai facendo tutte amiche e amici, non so, quando ci sarà il prossimo Presidente della Repubblica, dopo questi giudizi di Forchielli, sarà facile poterlo contattare. Ecco, no, poi ci sono i tecnici, per esempio Draghi, lo vedresti bene dalla BCE, viene lì Mario Draghi, così lo mettiamo al Quirinale e ci controlla. Basta che qualcuno paghi, c'è problema. In che senso? Con quel che guadagna la BCE bisogna dargli, capito? Cioè, basta che paghi, può darsi che arriva. Se paghi se lo licenziano, come ormai la linea sembra che sia un po' in rotta con la Merkel, fa fatica a far partire questa ondata di liquidità monetaria, l'annuncia però non parte. Quando è andato a Jackson Hole alla riunione dei banchieri centrali quest'estate, ha detto faremo una grande manovra monetaria, Schaub, il ministro delle finanze tedesco, ha detto Draghi è stato frainteso. Cioè Draghi è in rottura con la Merkel. Perché anche la Germania sta virando a destra, sta diventando euroscettica. C'è un partito euroscettico che sta guadagnando molti punti, straordinariamente, per cui anche la Merkel vede il supporto scivolarle sotto, la Bundesbank ha sempre avuto una posizione molto ostile, quindi le voci in giro, e poi vedo che non riesce mai a far partire questa manovra di espansionistica monetaria, parla, ma non parte mai. Sai, i giapponesi nel giro da sera alla mattina hanno fatto partire l'altro venerdì, ci hanno sorpreso tutti, hanno fatto partire una roba da 8 miliardi di dollari al mese, una cosa del genere. Questo ormai parla da 6 mesi, non si è visto niente. Quindi, insomma, ammesso poi che funzioni, sì, lo vedo un Draghi un po' in folle Draghi. Vabbè, questi alcuni giudizi, magari qualche nome spunterà, anzi mandateci il vostro nome al 349-238-6666 del possibile Presidente della Repubblica, e Alberto Forchielli vi darà un giudizio subito, così, di quelli urticanti, come sentite. Allora andiamo a sentire il traffico, poi torniamo con Alberto Forchielli, ricordo Presidente dell'Osservatorio Asia, nostro imprenditore multimondiale che ci sta parlando da Hong Kong. 24 mattino. Te lo dico subito, il Barbagianni di Renzi, non ho capito, io si lamenta, non vuole burocrati nell'Europa, la Commissione Europea, e poi dopo è pieno di burocrati in Italia. Si vuole liberare degli europei, si liberi prima degli italiani, sto baccalà. Milan, che patacca che sei, abbiamo fatto tanto per farti vedere la Brescia e non l'hai neanche invitata a cena. Non hai capito che volevo andare a cena, dice ti invito io, dai, va. E così Bonanni se ne va in pensione con 300.000 euro lordi l'anno. C'è tutto da ridere, mentre ci sono pensionati con 800 euro al mese. Avete visto in buon Renzi la cena che ha fatto con gli 800 ladroni? Si parla di poteri forti. Guardate quali imprenditori con le toppe al sedere sono andate e capirete chi sostiene questo governo di ladroni. Ladroni! Ciao Rossella, ti darei tanti baci a catenella. Ciao Rossella, ti vorrei o ti voglio bene come mia sorella. Ciao, sei proprio una stella, ciao. Vabbè, sono lasciti del passaggio di Rossella Brescia, caro Forchielli. Abbiamo avuto Rossella Brescia eccezionalmente prestata da RDS per una mattina venerdì scorso, e quindi Che devi dire? Era qualcosa. Ora. Era ora, sì, effettivamente. Ora. Dopo una lunga campagna ce l'ho fatta, insomma, a portare qui Rossella Brescia. Vabbè, insomma, che dobbiamo dire qua sui nomi? Beh, ecco, per esempio, l'Abonino. Che ne pensi di Abonino? Ce lo chiedono gli ascoltatori. Sono arrivati tanti messaggi. C'è chi ci dice Cicciolina presidente. E vabbè, te la ricordi Cicciolina? Sì, quante sei? L'Abonino. Fermati. No, sto parlando dell'Abonino, non di Cicciolino. No, certo, vabbè, dimmi, Bonino. L'Abonino a me è sempre piaciuta. Ah, ti piace? Sono in gamba. Vedi, è la prima sulla quale dai un giudizio. Quindi Emma Bonino al Quirinale potrebbe essere una soluzione buona. Sì, ha esperienza. Sono coerente, seria, lo contrario, se non piace. E invece mi suggeriscono Di Maio, ma non ha 50 anni, è il vicepresidente della Camera, è il più giovane del Movimento 5 Stelle. Comunque uno di quelli del 5 Stelle, Di Maio non può farlo evidentemente perché non ha 50 anni, quindi... Meno male. Tu dici. Così mi risparmi la battuta. Vabbè, te la posso chiedere su uno del Movimento 5 Stelle che abbia più di 50 anni. Beppe Grillo. Già detto. Vabbè, allora, le cose serie. E allora ti fornisco solo l'ultimo, dai, Gianni Letta, perché me lo chiedono gli ascoltatori, poi dopo. Fa parte di quel mondo curiale che ci ha portato fin qui. Abbiamo bisogno di rotture importanti. Mi sembra che sia sicuramente una brava persona, poi è una persona che si fa voler bene, corretta, ma abbiamo bisogno di grandi rotture. Abbiamo bisogno proprio di cambiare troppo, e lui non è un uomo che può portarci verso i cambiamenti. Vabbè, ma in tutto questo, che ne pensi? Cioè, ti vedi un Renzi, un governo un po' incartato, un po'... Ma sai, promesse ne ha fatte tante, anche troppe. L'economia 2015 dice male, per cui la finanziaria che ha fatto non tiene. Non tiene perché la crescita non sarà quello che dice lui, e quello influisce molto sull'IVA, perché le stime sulla spending review che ha fatto non ci saranno, non riuscirà a fare quei risparmi che ha indicato, e poi dopo non riuscirà a ottenere dalla lotta all'evasione quello che lui ha messo, per cui la finanziaria dalla parte delle entrate non va bene, lui si ritroverebbe nel 2015 a fare una manovra, per cui i suoi sondaggi che adesso sono favorevoli andrebbero alle stelle, andrebbero alle stelle. In più i progetti di legge che sta facendo sono monnezza, sono enunciati bene, ma poi dopo vengono fatti da personaggi un po' lì per là, per cui quando uno li va a vedere dentro sono veramente schifezze, per cui lui secondo me ha bisogno di andare alle elezioni in fretta. Non controlla il partito, quindi lui ha bisogno di andare alle elezioni in fretta. Ogni scusa è buona per lui per andare alle elezioni spostandosi sulla destra. E poi c'è la Camusso che gli fa ogni giorno, no? Hai visto che ha messo la maglietta Arrogance, profumo di Premier. Si è presentata così a una manifestazione. Sì, adesso io, sai, la Camusso più parla, più gli fa prendere voti Renzi, È il suo miglior alleato, più parla la Camusso, cosa vuoi che... Non do molta importanza di scioperi, io li vedo poi dopo, in realtà poi sono tutti pensionati, gli danno il panino, la bandierina, il fazzoletto e poi vengono giù per la campagnata. Eccolo là, la solita polemica. Già la Picerno si è scottata con una polemica del genere. Però Albertone, fermare, qui il tempo è finito, come facciamo? Ma è vero che fino a febbraio non puoi stare con noi? Ah no, sono in America e me sono le mezzanotte e mezza, capito? E tu dormi. Quando tu dormi. Ah no, ma io per parlare con te devo prendere dei caffè, sai, dopo che finiscono, non è che vado a dormire, mi faccio la notte in piedi, capito? E allora no, dai. Non è tanto arrivato. Ecco. È il dopo, capito? È il dopo, è il dopo. Vabbè, ma magari una volta lo farai per noi, chi lo sa. Sì, una volta. Intanto, Albertone, ti mandiamo un grosso abbraccio. Grazie per essere stato con noi, Alberto Forchielli. Devo andare al giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:20 in punto, cari ascoltatori, amici debosciati d'Italia. Forza che si è ormai aperta ufficialmente l'ottantesima settimana decisiva. Decisiva per la riforma elettorale. Infatti uno legge il titolo della stampa ed è questo: legge elettorale verso il rinvio. Ma come? Vabbè, ma è anche l'ottantesima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Sarà decisiva per la legge elettorale o l'abolizione delle province? Staremo a vedere. Intanto noi siamo qui e parleremo di politica. Oggi avremo Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, avremo Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia. Parleremo anche con un imprenditore, Chicco Testa, che è andato alle cene, alla cena quella di Roma in cui c'era Matteo Renzi, per raccogliere fondi per il Partito Democratico. E dunque parleremo di tutto questo più tardi alle 8:15, ovviamente con i nostri ospiti politici, ovviamente il Quirinale su tutto, la legge elettorale, questi dibattiti, insomma queste le tematiche che affronteremo. Intanto però andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. Per questo lunedì 10 novembre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre così: tasse retroattive in 3 anni, conto da 10 miliardi di euro. Mentre per il Corriere della Sera, la vicenda Quirinale, decido io quando lasciare, questo è il senso della nota di Giorgio Napolitano. La vicenda della legge elettorale, come detto in apertura della stampa, verso il rinvio la legge elettorale, mentre Repubblica, Renzi ultimatum a Berlusconi. Per il giornale il titolo è sul Quirinale: i fallimenti di Napolitano finalmente lascia. Questo è il titolo del giornale. Mentre il Messaggero: Renzi, un nome per il Colle. Secondo il Messaggero c'è un nome già coperto, che verrà tenuto coperto fino all'ultimo. Cioè, capite i giornali oggi di cosa parlano? Di una roba futuribile che chissà quando avverrà, forse a gennaio, tra 2 mesi, insomma, per dare una sintesi, una noia mortale da un paio di giorni i giornali, da quando è nata questo chiacchiericcio e questa notizia che si è sparsa su Giorgio Napolitano, che non finirà il mandato come era naturale, come era già previsto, lascerà probabilmente a gennaio e via, è partito il toto nomine, il toto Quirinale e anche il dibattito sulla legge elettorale, tiene o no il patto del Nazareno, insomma, come detto, una noia mortale, ma ve la dovete sorbire se comprate i giornali. Però partiamo da altre notizie. Per esempio, si infittisce il mistero delle 8 multe prese dal sindaco di Roma Ignazio Marino per essere entrato nei varchi della zona traffico limitato, prese da lui o da qualcun altro che era la guida della sua macchina. Ecco perché comincia a spargersi questa voce. Oggi il Corriere torna su questa vicenda, c'è un test contro Marino che dice non sono mai stati rilasciati pass temporanei, è un super test per la verità, racconta il Corriere della Sera a pagina 17 con Ernesto Menicucci. Il super test, ascoltato dai carabinieri, smentisce la ricostruzione del sindaco e del suo staff. Prima del 12 agosto 2014 non c'era alcun permesso temporaneo per il sindaco. Questa è la dichiarazione di un dirigente dell'Agenzia della Mobilità rilasciata in questa vicenda, anche perché ora spuntano gli orari delle 8 contravvenzioni e gli orari, incrociando gli impegni del sindaco Marino, fanno presupporre che non fosse lui alla guida, perché durante quegli orari e quei giorni il sindaco Marino in alcuni casi era impegnato in giunta, in altri casi era impegnato in altri appuntamenti. Insomma, Chi c'era alla guida della macchina del sindaco Marino? Forse la moglie, per esempio, chiede il Corriere della Sera. È un mistero che si infittisce e sul quale peraltro Marino rischia grosso, perché qualcuno addirittura ha fatto notare che se un sindaco ha pendenze con la propria amministrazione comunale dal punto di vista delle multe, è a rischio decadenza secondo un regolamento. Comunque, altre problematiche evidentemente Marino le ha affrontate con la questione della metro C. La metro C, l'opera che raccontava la scorsa settimana Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, è costata miliardi in più di quelli che sono stati preventivati. Questo è un classico delle opere pubbliche in Italia, costata 4 miliardi, attesa da 20 anni, e tutti fanno notare che sinceramente la prima corsa non è che sia andata benissimo. Guardiamo alcuni titoli per il Corriere della Sera. Metro senza guidatore, partenza con guasti. Il Quotidiano Nazionale: parte la metro C delle meraviglie, ma il treno non arriva al capolinea. Per il Giornale: i disastri di Marino, 7 anni per la metro C e si rompe subito. La Stampa: Roma, ecco il metro più caro, 160 milioni al chilometro. La terza linea era attesa per il Giubileo, il primo convoglio si ferma. Insomma, non un esordio di quelli straordinari, come racconta Alessandro Capponi sul Corriere della Sera, pagina 16, 20 anni per averla, 20 minuti per il primo guasto. Qua e là tornelli difettosi, annunci fantasiosi dell'altoparlante, difficoltà di accesso per i disabili, senza contare quei passeggeri del viaggio inaugurale rimasti nei convogli a porte chiuse, senza poter scendere, nonostante l'altoparlante avesse cambiato per la terza volta in un quarto d'ora la destinazione d'arrivo. Insomma, lo stop arriva 10 minuti prima delle 6 del mattino, quando l'altoparlante del convoglio partito alle 5:30 annuncia, nell'ordine, che la fermata successiva, 4 prima del capolinea previsto, sarà l'ultima della corsa. Poi per 2 volte annuncia che si torna alla stazione di partenza. Infine annuncia che il treno proseguirà verso la destinazione iniziale. Il risultato è che in molti sulla banchina ridono. Forse l'ironia, scrive il Corriere della Sera, di Spinoza, sapete che fanno sempre delle battute urticanti, è la migliore per riassumere la situazione della metro C. Il metro si guasta al viaggio inaugurale. Vedi a fare le cose di fretta, questo Spinoza. Vabbè, certo, un inizio che si può dire andrà meglio la seconda. Ma siamo al momento dell'articolo Mani sul volante, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Mi raccomando, se siete al volante, come sempre, tenete le mani ben salde sul volante, caffè appoggiateli per favore, mani sul manubrio se siete in bicicletta. Come al solito vince Orso La Riva sul Corriere della Sera, che dedica mezza pagina a questa vicenda paradossale, incredibile io nel leggerla. Medicina, il caso del premio ai bocciati. Come va a finire la questione della riammissione di 5.000 persone che non avevano passato l'esame di ammissione per medicina, ma sono stati riammessi dopo ricorsi al TAR? Ebbene, che questi qui potranno scegliere l'ateneo che preferiscono e che avevano messo come primo in scelta nel caso avessero passato l'esame. Al contrario di coloro che hanno passato l'esame, che non possono scegliersi in alcuni casi la facoltà di medicina da frequentare. Per cui il paradosso è questo: il ministero concede ai 5.000 riammessi dopo i ricorsi al TAR che non avevano passato l'esame di scegliere l'ateneo che preferiscono. Beffa per quelli che hanno superato il test e che invece sono costretti a iscriversi lontano da casa. Per cui il paradosso è questo: ci sono alcuni che hanno passato il test, che non so, come la comasca Claudia Colombo che deve andare a Torino, o oppure qualcuno che addirittura ha passato il test e ha rinunciato perché doveva andare, che ne so, da Padova a Salerno e quindi non poteva permettersi di frequentare la facoltà di medicina a Salerno. E invece, per evitare nuovi ricorsi, il ministero ha emanato una nota che permette a coloro che hanno vinto il ricorso al TAR di scegliersi dove vogliono andare, sotto casa a studiare andate pure sotto casa. Insomma, si è ribaltata la situazione. Quelli che avevano passato regolarmente l'esame magari si ritrovano a dover affrontare una facoltà di medicina lontano da casa, e quelli che non l'avevano passato ammessi per il DALTAR, e poi si scelgano pure la facoltà sotto casa. Le cose che vanno sotto sopra in Italia. Perché, come dice un simpatico concorrente, la carta costa. Alessandro Milan, il pizza di ruolo dell'informazione. Allora, alle 7.33 minuti siamo qui ancora a leggere i giornali, che oggi dedicano le prime 4, 5, 6, 10 pagine alle notizie di politica. Ci concentreremo anche noi su questo alle 8.15, perché le notizie di politica sono varie. Intanto il fatto che Giorgio Napolitano, questa notizia che si è ormai diffusa nel weekend, ma era una notizia abbastanza risaputa, che non avrebbe portato a compimento anche il secondo mandato, l'aveva detto più volte. Ebbene, ieri lo ha precisato anche in una nota, non c'è nulla di nuovo. Ebbene, però Giorgio Napolitano, si è diffusa la convinzione che tra cavallo, tra la fine del 2014-2015 lascerà. E quindi basta, è partita imperterrita, irrefrenabile, noiosissima la campagna del Toto Nomine. Ecco qui le 4, 5, 10 pagine sui giornali, cose che interessano solo ai giornali, ai giornalisti, a poche altre persone, a quelli che si interessano, i 5.000 che si interessano di politica. Tutti gli altri non gli frega assolutamente niente di pensare chi sarà tra 2-3 mesi il Presidente della Repubblica, ma funziona così. Come l'altro dibattito che va avanti è la questione del patto del Nazareno, regge o non regge. Questo magari per chi si interessa delle sorti del governo è un pochino più interessante, nel senso che si capisce se si va a votare a marzo oppure no, se Berlusconi e Renzi hanno ancora un patto in essere. Ebbene, il risultato sono appunto questi commenti che ci sono sui giornali. Intanto la vicenda Napolitano, ieri una nota del Quirinale che esprime anche sorpresa, come racconta Marzio Breda, pagina 2 del Corriere della Sera. Tanto clamore per nulla, minimizzano sul Colle, tutto era previsto e prevedibile, tranne alcune speculazioni. Né si ha da smentire né da confermare. Questa è la formula utilizzata dal Palazzo, rivendicando così con una nota ufficiale che il bilancio di questa fase di straordinario prolungamento, di conseguenza le decisioni che riterrà di dover prendere Napolitano, restano esclusiva responsabilità del capo dello Stato. Come dire, decido io quando mi dimetto. Però è partito il Toto Nomine, e ripeto, non ci si può fare niente. Ecco subito Monica Guerzoni che va a telefonare a Romano Prodi, colui che un anno e mezzo fa fu impallinato dalla cosiddetta congiura dei 101 franchi tiratori del PD. Come può andare al Quirinale uno che impugna il telefonino al contrario? Eccolo qui Romano Prodi, all'ora del tè, risponde dal suo salotto della casa di Bologna, di ottimo umore, ha voglia di scherzare, e dice così: ho preso il telefonino al contrario, come possono mandarmi al Quirinale? Comunque precisa subito, scandendo: io non ho nessuna intenzione di fare il Presidente della Repubblica. Lo scandisce così, sperando che il suo nome in qualche modo, racconta il Corriere, venga tolto dalla lista dei papabili, ma in realtà così non sarà. E così, vabbè, Prodi che aggiunge: sto benissimo, giro il mondo come un matto, sono tornato dall'Oriente, ora parto per gli Stati Uniti, e comunque anche su un anno e mezzo fa non c'è alcuna ferita da chiudere, perché il problema non si era mai aperto. E allora si va a sentire Franco Marini, un altro impallinato un anno e mezzo fa. Ora presiede il Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale. Risponde al Corriere della Sera così il Quirinale: se volete parlare della Grande Guerra, io sono a disposizione. E anche Rodotà: con questo Parlamento ho avuto già un po' a che fare, ricorda con amarezza. E poi dice: non voglio dire una sola parola perché possa essere interpretata come una polemica tardiva, anche se ce ne sarebbero da dire. E vabbè, e poi c'è invece la questione della donna, un altro tormentone che ci sarà. Ci vuole un presidente donna. Così Laura Boldrini, rispondendo ieri a una domanda, e racconta il Corriere della Sera, pagina 3, una donna al Quirinale a lanciare questa ipotesi è la Boldrini. Il paese è pronto per un presidente donna e si fa il nome della stessa Boldrini, si fa il nome di Anna Finocchiaro, si fa il nome del ministro della difesa Pinotti, si fa il nome, che spunta sempre, di Emma Bonino. E così via. Vabbè, questo è il dibattito al Quirinale. L'altro dibattito è quello sulla legge elettorale. Allora, è scaduto, secondo quello che davano ieri i giornali, l'ultimatum di Renzi a Berlusconi. Cioè Berlusconi avrebbe dovuto dire entro ieri o entro al più tardi stamattina se c'è ancora questo patto del Nazareno. Non risultano chiamate, non ci sono state chiamate, e anzi, raccontano i giornali, qui bisogna leggere i vari retroscena, Renzi esclude il voto anticipato, questo secondo il Corriere della Sera, perché alla fine il Cavaliere dirà di sì. Il messaggio di Palazzo Chigi, racconta Marco Galluzzo sul Corriere, è questo: vedrete che alla fine Berlusconi dirà di sì. Noi andiamo avanti con le riforme con urgenza e determinazione, sapendo che l'orizzonte del governo è quello dei 1000 giorni e dunque del 2018. Ma sia il presidente del PD Orfini, in un'intervista al Corriere, dice: se Forza Italia si sfila siamo pronti a schemi diversi. E sia il vicepresidente del PD Guerini, intervistato dal Messaggero a pagina 4, dice: sia la riforma con chi ci sta, anche con Grillo, se Grillo vuole è il benvenuto. Ci siamo sempre rivolti in maniera molto chiara a tutti, racconta Lorenzo Guerini. Per mesi dai 5 Stelle non abbiamo ricevuto segnali, poi la sberla elettorale alle europee li ha risvegliati dal torpore e hanno preso un atteggiamento non chiaro, ondivago. Se si vogliono rendere utili sono benvenuti, a patto però che non si ricominci da zero, visto che un pezzo di strada l'abbiamo già fatto. E Berlusconi che fa? Beh, Berlusconi ha soprattutto a badare al proprio partito, infatti manda l'onorevole Maria Rosaria Rossi a trattare con Fitto e i cosiddetti ribelli. E infatti, racconta il Corriere, Berlusconi frena, decido con il partito. Pagina 6 del Corriere, Tommaso Labate racconta: a questo punto avvertite Renzi che la risposta non arriverà. La mia linea è parlare prima con il partito, giovedì. E poi, se lui si aspetta una risposta, se l'aspetta entro stasera, cioè riferito a ieri sera, sappia che non arriverà alcuna risposta. E quindi fino a giovedì ci sarà altro dibattitone. Per il secolo XIX, Giovanni Palombo racconta a retroscena di Renzi: non aspetto Berlusconi sulla legge elettorale. Insomma, giornali fotocopia su questo tema, ci saranno commenti simili per i prossimi giorni. L'altra polemica politica invece sono gli strascichi della vicenda Salvini. Salvini che, attenzione, oggi torna a Bologna. Torna annunciando un tentativo di entrare ancora nel campo Rom, dove c'è stato qualche problemuccio la scorsa settimana. E tra l'altro racconta il Corriere della Sera: Salvini e la scorta, ecco come è andata. Fiorenza Sarzanini a pagina 11 racconta: la questura di Bologna dice c'erano 80 poliziotti al campo Rom, ma il leader leghista ha cambiato il programma. Si legge dal Corriere: esisteva un dispositivo di sicurezza per proteggere Salvini, ma il segretario della Lega avrebbe preferito evitarlo. Dunque sabato mattina non avrebbe avvisato la questura di Milano della partenza e quella di Bologna del suo arrivo, come si era invece impegnato a fare. Non ha comunicato costantemente i propri spostamenti, i mezzi utilizzati, i luoghi di sosta, di soggiorno. Dunque le ricostruzioni e la questura smentiscono la versione del leader del Carroccio, che dichiara di essere stato impedito di entrare. Dimostrano invece come l'attacco violento dei centri sociali poteva essere evitato se Salvini avesse rispettato il programma messo a punto dal questore Stingone, proprio per evitare qualsiasi tipo di contatto con gli estremisti. E oggi, racconta il Corriere, si rischia la replica, visto che ci sarà una nuova visita. Il punto cruciale è quando alle 11.50 di sabato, non ricevendo notizie, il capo della Digos di Bologna invia un sms alla consigliera leghista Borgonzoni, che abbiamo avuto nostra ospite, che era sulla macchina con Salvini la scorsa settimana. Voleva sapere a che punto del viaggio fossero e scoprono così che Salvini era già nel punto dove c'è stato poi l'aggressione dei centri sociali. E come dire, ha fatto tutto senza avvisare. La scorta era pronta, ma Salvini non ha comunicato l'arrivo. Questo è anche il titolo della Stampa. E oggi Repubblica sottolinea: Salvini torna a Bologna, tensione con la questura dopo gli incidenti. C'è anche un'intervista sul Quotidiano Nazionale che tra l'altro ha avuto un giornalista ferito, gli hanno spaccato il braccio quei simpaticoni dei centri sociali al giornalista del Quotidiano Nazionale. E sul Quotidiano Nazionale c'è il prefetto che dice: ora basta, i violenti vanno isolati, serve un nuovo inizio, questi violenti vanno isolati senza se e senza ma, non servono polemiche ma no a esitazioni. Ho provato dolore e rabbia nel vedere l'auto di Salvini distrutta, qui ci sono a Bologna corpi estranei, sono cose che non devono succedere. Così il prefetto Sodano, prefetto di Bologna, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Ma noi siamo qui con l'uomo che è ancora sotto in classifica e sperava il contrario, il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Ma guarda, in realtà sono abbastanza sereno perché mi sembra di aver capito che il presidente Toio sta cercando casa a Milano o comunque. Sì. E ecco, quindi... No, perché noi abbiamo diverse cose sulla casa oggi sul Sole 24 Ore, gliele volevo segnalare. Va bene. Ad esempio, non so se lo sai, ma è cambiata la norma nazionale sulle caldaie e i condizionatori, sono cambiati i libretti di impianto e oggi ti spieghiamo anche che cosa c'è da fare. Attenzione perché poi ci sono delle regioni che hanno legiferato in materia con alcune diversità rispetto alla norma nazionale, ma trovi tutto sul Sole 24 Ore. Poi novembre, caro mio, aprile era il mese più crudele, diceva il poeta, invece novembre è il mese tra l'altro della cedolare secca. Allora se tu volessi affittare un appartamento al presidente Toir, ecco, sappi che puoi utilizzare la cedolare secca. Quali obblighi hai? Leggi sulle 24 ore di oggi, così puoi scoprirlo. Invece non so se vuoi fare un regalo alla tua squadra che si è ben disimpegnata, però ti informo che su Risparmio e Famiglia siamo andati a vedere come si può risparmiare qualcosa sui regali di Natale, perché sfruttando l'e-commerce, sfruttando già le offerte che sono partite, si può anche risparmiare qualche cosa. Tutto ciò perché ci hanno chiesto 10 miliardi retroattivamente negli ultimi 3 anni, non so, questo solo. Il titolo principale, solo 10 miliardi, sì, quindi di più di quello che abbiamo speso noi per la campagna acquisti. Con questo però non voglio fare polemica con il mio presidente, però insomma è un dato di fatto che è così. Che altro non ti vuol dire, caro fanciullo, ma pensavo di avere solo 100 secondi oggi, perché oggi mi sembrava che dovessimo stare... Ah, giusto, i 100 secondi. Ecco. No, anzi 99, perché 99. Scusami, 100 giustamente li avrà il direttore. Facciamo il 101, ma... come i franchi tiratori che impallinarono Prodi, noi facciamo il 101. Facciamo 99, Alessandro, lasciami tranquillo che dopo se non vengono fuori sempre delle gelosie, lo sai che questo, che il nostro è un lavoro anche un po' difficile da questo punto di vista. Vabbè, ti segnalo così 98, a passare, 98. Fermiamoci sui 98 che sono tutti tranquilli. Ti segnalo anche un'ultima cosa: i pagamenti alle PMI vanno sempre piano, anche quelli della pubblica amministrazione. Aia. Però però siccome dicevo, sono quelli del Monte Senario? Sono ancora quelli lì, lo scriviamo oggi nelle pagine imprese e territori, vabbè, però non diciamo niente, sennò poi c'è gente che deve andare a piedi, c'è anche brutto tempo, almeno qui a Milano, e quindi lasciamo stare. Alessandro Milan, pisellino dell'informazione! Va bene. Allora, alle 7:48 minuti sono qui. Tra l'altro devo rispondere a un messaggio che ci è arrivato in contemporanea su Facebook. Buongiorno, ci scrive un'ascoltatrice: dice: mia figlia ha sentito la notizia sull'ennesima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E la figlia dice: ma no, abolire le province, in quinta mi è toccato impararmele tutte a memoria, ora le lascino lì dove stanno. Non so se dobbiamo raccogliere l'appello di questa straordinaria quinta elementare, immagino, quindi straordinaria bambina, però vabbè, dai, rimangono le città comunque, non so, se non c'è più la provincia di Cremona, per esempio, esiste la città di Cremona, cara bimba, e quindi aboliamole, dai. Va bene, ma comunque torniamo su questioni economiche, perché l'Unione Europea avverte l'Italia, questo leggo almeno da Repubblica, siamo pronti alla procedura. Pagina 9, Alberto D'Argenio racconta il retroscena di una Commissione Europea che è pronta a un nuovo scontro tra governo col governo italiano. Sembrava tutto abbastanza passato in sordina, invece questa volta gli esiti del confronto potranno cambiare gli equilibri politici in Italia e tra Bruxelles e le capitali della zona euro, perché, scrive Repubblica, su Roma pende la minaccia di una nuova manovra correttiva e della pubblicazione anche di un early warning sui conti pubblici, cioè il primo passo di una procedura per deficit eccessivo in base alla regola del debito. Lo scorso 29 ottobre, sapete, la commissione uscente aveva evitato di respingere la legge di stabilità, ma la bocciatura non è scampata perché Renzi aveva negoziato una correzione di 3,3 miliardi del deficit strutturale, con la quale credeva di essersi messo al riparo da sorprese. Ma non è così, racconta Repubblica. Ora il nuovo commissario Juncker il 24 novembre si esprimerà sulle manovre di tutti i paesi dell'Eurozona, anche l'Italia, e rischiamo un nuovo schiaffo, rischiamo insomma una nuova bocciatura nonostante questa correzione di 3,3 miliardi, il che vuol dire che Renzi si adombrerà ulteriormente con l'Europa. Questo lo vedremo nelle prossime puntate. Intanto sempre Repubblica prende spunto dai 2 milioni che sono andati al voto in Catalogna per l'indipendenza, un voto simbolico perché non avrà alcun significato dal punto di vista legale. Dal governo centrale, il governo centrale spagnolo ha già fatto sapere che qualunque saranno i risultati non ci sarà nessuna indipendenza. Ma è interessante non tanto questo quanto il sondaggio di Ilvo Diamanti, sempre su Repubblica, perché va a sondare quello che è il senso di separatismo che c'è in Italia. E il titolo è questo: separatisti d'Italia, 1 su 3 è favorevole all'addio a Roma. Il vento che sta scuotendo l'Europa soffia anche da noi, soprattutto il nord-est d'Italia è in prima linea, in Veneto sono pronti a dire sì il 53% dei veneti, questo almeno secondo il sondaggio di Ilvo Diamanti, le persone che sono state sentite, il 31% di italiani comunque è favorevole all'indipendenza della propria regione dall'Italia e quindi dal governo centrale di Roma. 31%, un italiano su tre, con punte in questo caso del nord-est, del 52% del Veneto. Beh, interessante certamente questo sondaggio che trovate su Repubblica. Mentre, se siete più tranquilli, ve lo dico, i magistrati per ora hanno deciso di non scioperare. Ci asterremo se l'indipendenza sarà messa a rischio, ma per ora hanno votato e non passa lo sciopero immediato. Altra questione che animerà le vostre colazioni, lo sento. Mentre, se si vuole andare allo sport, ci si vuole concentrare sullo sport, è il titolo della Gazzetta dello Sport che non trovo in questo caso, ma tanto il Milan non ha vinto, quindi si potrebbe anche non leggere. Comunque il titolo della Gazzetta è: nuova Juve, 7 baci, hanno fatto 7 gol al Parma, il povero Donadoni sempre più ultimo in classifica, ma la Roma vince, quindi rimane a più 3 la Juventus, come rimane l'Inter dietro al Milan. Alla prossima è anche il derby, peraltro. Ma cito l'Inter perché Toir, che era a Milano, ha fatto un'intervista a Repubblica. Appena cito Toir mi viene da tossire. Ha fatto un'intervista a Repubblica, ha risposto anche alle accuse, sapete, al razzismo che c'è stato nei suoi confronti in alcune delle interviste, no? Ervi Peretta che ha detto mandiamo via il filippino, e lui è indonesiano peraltro, e Evelina Cristillen, che mi hanno detto che si dice Cristillen, che ha detto che è cicciottello, eccetera. Insomma, Toir risponde in una lunga intervista a Repubblica anche su queste cose: non sono alto, non sono magro, qualcuno dice che non sono neppure bellissimo. Questi sono fatti, non li nego, ma sappiate che sono un gran lavoratore e proverò a sistemare l'Inter. Non credo gli italiani siano razzisti. La maggior parte è passionale e affettuosa. Però certo, su Evelina Cristillen dice non la conosco e so che ha diffuso un comunicato, e poi aggiunge it's up to her, cioè spetta a lei fare qualcosa se vorrà. E qui balla una possibile querela. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa. L'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, un'intera pagina di Maristella Carbonin sul Quotidiano Nazionale. Prendendo spunto da Rosita Celentano, Rosalinda, come diavolo si chiama, Rosalinda, che ha lasciato via Twitter la sua fidanzata. Ecco, amore, ti lascio in 140 caratteri. Le star abbandonano i comunicati stampa e ora si mollano via Twitter. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sono quei giorni, cari ascoltatori, in cui se prendete i giornali, e beh, trovate un profluvio di retroscena, commenti, resoconti, chiacchiere, e diciamolo francamente, il 90% delle volte sono chiacchiere inutili, su quello che si muove in politica, i riposizionamenti. Due sono le notizie che stanno catalizzando l'attenzione: la vicenda Quirinale, dopo che i rumors sul possibile addio di Napolitano si sono intensificati. D'altronde si sapeva già che Napolitano, il capo dello Stato, non avrebbe fatto il secondo mandato per tutti e 7 anni, ma ora le vicende sembrano aver preso un'accelerazione. Si parla di fine anno o inizio 2015 come possibile data in cui Giorgio Napolitano lasci. Certo, lui ieri con una nota al Quirinale ha ribadito che è tutto in mano a lui, cioè lui che decide, ma è chiaro che subito sono partiti i totonomi, le totonomine. Laura Boldrini dice il paese è pronto per una donna al Quirinale, insomma, se volete esercitarvi c'è questo. E poi c'è l'altro tema, il tema delle riforme, soprattutto della legge elettorale. E sapete che qui conto le settimane ironicamente decisive per la legge elettorale. Siamo alla settimana numero 80 di questa legislatura che inizia giusto oggi. E sulla stampa il titolo di prima pagina, se volete capire un po', è legge elettorale verso il rinvio, ecco, per l'appunto. Comunque il tema sulle riforme, sulla legge elettorale, è: esiste questo patto del Nazareno, è ancora in piedi tra Renzi e Berlusconi? Perché se no Renzi pare che questa sera parlerà al partito a dire non attendo oltre Berlusconi e faccio la legge elettorale, le riforme, con chi ci sta. Allora, su queste tematiche della politica, se volete intanto vi do il numero per intervenire: 800 24 00 24, Quirinale e riforme. Vi chiedo anche, secondo voi, che ne pensate di Laura Boldrini che dice una donna al Quirinale, di questo tipo di battaglia. E poi ne parliamo con l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia. Buongiorno onorevole, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Così come saluto il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle, siede anche nella Commissione Affari Costituzionali di cui è vicepresidente. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora senatore Morra, io inizierei proprio da lei, perché oggi ho letto due interviste, non una ma due, del presidente del PD Orfini al Corriere della Sera e del vicepresidente del PD Guerini al Messaggero, che guardano anche a voi. Come dire, Guerini è proprio esplicito, dire Grillo, se vuole, Grillo nel senso il Movimento 5 Stelle, se vuole è il benvenuto parlare di riforme, basta che, come dire, non si inizi col solito discorso: abbiamo la nostra legge elettorale, abbiamo i nostri candidati, abbiamo di qui di là. Ecco, ce lo dica chiaramente, è possibile un'intesa sulle riforme, sulla legge elettorale col PD? No, è possibile semplicemente che si dia ascolto a milioni di italiani che attraverso il movimento hanno fatto sapere quali siano le scelte, appunto, di questi cittadini che sono stanchi di una politica che annuncia, che promette, che seduce, ma poi non mantiene. Io ricordo a tutti che relativamente, appunto, alla legge elettorale, a suo tempo, quest'estate, esattamente nel mese di luglio, ci sono stati degli incontri fra una nostra delegazione e dei rappresentanti della maggioranza e del PD, in particolar modo la delegazione del PD era guidata dal segretario Renzi, e poi tutto si è concluso con il PD che sosteneva che comunque loro erano vincolati all'accordo con Forza Italia. E però quest'accordo forse potrebbe saltare, questo è per questo che cambiano le cose in politica. Come benissimo, benissimo, però io ricordo molto molto nettamente le parole con cui Luigi Di Maio ha ringato Matteo Renzi alla fine dell'ultimo incontro. Presidente, la nostra proposta è qua, ci faccia sapere. Noi non siamo, fra virgolette, i sostituti che stanno in panchina e poi quando il titolare non ce la fa più, sta giocando male, vengono chiamati a sostituire, anche perché noi non dobbiamo assolutamente sostituire la partitocrazia. Noi abbiamo avanzato una proposta, ci si poteva dire ci piace, non ci piace, ci sono degli aspetti che probabilmente vanno corretti, insomma si poteva entrare nel merito delle questioni. Non volete invece fare i panchinari no, chiamate lì è stata anche per esempio il ministro per le riforme Boschi a ricordare che c'era già stato un accordo politico, il famoso patto del Nazareno. A questo punto noi ne prendiamo atto e ricordiamo anche che questo Parlamento è delegittimato perché è eletto con una legge che a distanza di 8 anni la Corte Costituzionale ha definito illegittima, incostituzionale. Però ha detto anche che il Parlamento è giuridicamente, Per quanto giuridicamente il Parlamento abbia una sua dignità, è pur vero che logicamente e moralmente questo Parlamento, come leggevo, ha sostenuto anche Pasquino, che non è certamente ascrivibile a noi, il Parlamento è fortemente indebolito da questa sua, da questo suo difetto di nascita. Per cui, torno a ripetere, noi siamo sempre stati sul pezzo, come si dice, noi abbiamo sempre avanzato proposte e abbiamo anche accettato che queste proposte potessero essere criticate nel merito. Le chiedo anche questo però, senatore Morra, ma è vero che Beppe Grillo, Casaleggio hanno in qualche modo nei giorni scorsi richiamato all'ordine perché qualcuno aveva fatto delle aperture? Qualche intervista c'è stata, anche lo stesso Di Maio al Corriere, una sorta, come dire, di fronte aperturista lo si è letto, invece siete stati richiamati a dire no, nessuna apertura. No, ma guardi, io non ho avuto modo di ascoltare Beppe, Gianroberto e chiunque altro, ma non è che noi si dipenda da Beppe e Gianroberto, ci tengo a ribadirlo. Al nostro interno ci siamo confrontati in più occasioni su questi temi, noi abbiamo avuto un preciso mandato e a quello ci dobbiamo attenere. In funzione di quello che si è visto in questi mesi, si è capito che il PD renziano in particolar modo preferisce essere avvinghiato al mondo berlusconiano. Di conseguenza si prende atto di tutto ciò e si chiede che si possa tornare alle urne. La nostra considerazione era, nei mesi passati, che si poteva fare attraverso una legge elettorale nuova che desse finalmente ai cittadini italiani la possibilità, per esempio, di recuperare la preferenza. Ma voi vorreste votare, andare a votare? Sì, andare a votare. Sì, anche perché la sovranità appartiene al popolo, non mi stanco mai di ripeterlo. E su questo forse siamo pronti ad accettare qualunque responso. Su questo forse siete vicini a Renzi, pur senza volerlo essere. Qualcuno dice che Renzi abbia in mente di andare a votare al voto, però mi faccia sentire l'onorevole Bianconi. Onorevole Bianconi, vorrei fare due chiacchiere a partire da una domanda precisa: il patto del Nazareno è ancora in piedi secondo lei? Io non l'ho mai visto, nessuno l'ha mai visto, qualcuno dice che è scritto, Toti dice che l'ha visto di sfuggita, Verdini dice che avevano appunti suoi, quindi io non so se è in piedi o non c'è. Per me il patto del Nazareno è una cosa che non è nota alle folle e neanche agli eletti, quindi non so che dirle. Però insomma, diciamo, allora un'intesa Berlusconi-Renzi, adesso si dice che Renzi aspettava una telefonata entro ieri, Berlusconi gli ha detto ditegli che finché non parlo col mio partito non lo chiamo. Io non sono esegeta dei pensieri altrui, posso dirle il mio. Io ritengo che Renzi voglia andare a votare subito, perché nella storia della nostra Repubblica, appena fatta una legge elettorale e si è subito adoperata. La legge elettorale è una norma strumentale che è cotta e mangiata, perché risponde a quella fotografia di quel momento e ognuno ci vede i suoi vantaggi e i suoi svantaggi per quel momento. Sposti di 6 mesi e già i termini sono cambiati, come lei avrà visto. Lo stesso Renzi ha cambiato 9 volte, come ha ricordato Brunetta, i termini di questa legge che voleva variare, perché appunto è variata la condizione. Prima si era al premio di coalizione, ora siamo al premio di lista, eccetera. Ora non sto ad entrarmi in queste cose che sono piuttosto noiose, però è logico che se un Presidente del Consiglio insiste tanto per avere una legge è perché vuole andare a votare. È perché vuole andare a votare, e secondo me non fa bene, perché in questo momento noi siamo anche disponibili a sopportare un Presidente del Consiglio non eletto, sì, e perché c'è da mettere in campo una strategia un pochino per cercare di uscire dalle secche, che sono ben più importanti. Come? Dopo aver detto sempre a dire non è eletto, non è eletto, dice adesso vuole andare a votare, no, così nel caso? Vede, una cosa sono le cose urlate nei giornali e nei comizi, e una cosa secondo me è la buona politica. Io sono un acerrimo nemico di Renzi, che ho definito Matteo Cazzaro, come lei sa, sì, ho fatto un hashtag e sono impietoso anche con la Boschi Ridens, che è la sua degna compare, quindi che anche qui ho lanciato un hashtag. Però dico che se uno prende degli impegni con delle promesse come ha fatto lui, andiamo a vedere, sì, se è in grado di rispondere. Ma voi non temete, non temete che... Mi sono spiegato. Bene. Io non gliela do la via d'uscita delle elezioni. Appunto, dice, cose e vediamo se le mantiene. Cioè dice, a questo punto non gli diamo la legge elettorale, così poi lui va a votare e ci frega. Però le chiedo, non temete che se si sfila Forza Italia, anche se il senatore Morra dice noi del Movimento 5 Stelle giammai l'accordo con Renzi, ma non temete che vi fanno fuori politicamente, nel senso che un qualche accordo si trova con altri e voi rimanete come il pesce in barile? La paura in politica non è mai buona consigliera. In politica vince sempre chi azzarda un pochino di più, e siccome Renzi non può permettersi di fare il gioco dei due forni su una legge elettorale che comunque deve avere il consenso non solo delle forze politiche, sì, ma anche di tutte le componenti all'interno delle forze politiche, perché Renzi parla di divisione in Forza Italia, si scorda della sua, della divisione, perché lui ha una sinistra piuttosto notevole, quindi non poi all'interno della maggioranza ci sono i centristi che non so se la vedono come lui o non la vedono come lui, non so se sono d'accordo sulle soglie al 5% per sparire dall'agone politico, non è così semplice. Insomma, la cosa che rilevo, mi consenta dottore, è che nel momento nel quale si sta approvando e discutendo la legge più importante per il destino italiano, che è la legge di stabilità, si usano due armi di distrazione di massa, legge elettorale e Quirinale. Del Quirinale, tra l'altro, distrazione di massa, del Quirinale, tra l'altro, parleremo magari qualcosa dopo la pubblicità. Ci raggiungerà anche Chicco Testa, che è un imprenditore che è andato alla cena con Renzi. A Roma. No, era un iscritto al PD, un esponente, sì, del certo, PD, che poi fa l'imprenditore per il PD. Va bene, adesso glielo chiederemo a lui, che è andato Presidente del Consiglio del PD. Ed è andato alla scena del PD. Però, senatore Morra, prima della pubblicità, mi dica sul Quirinale, così anticipiamo anche l'argomento. Anche sul Quirinale, voi come farete? Farete il sondaggio in rete? Sceglierete i vostri candidati e sosterrete quelli come l'altra volta? Sì, certamente, però vede, a differenza di quanto sosteneva il senatore Bianconi e il parlamentare Bianconi, il deputato Bianconi, noi reputiamo che il dibattito politico debba essere fatto pubblicamente nelle sedi preposte. Voi prima avete ragionato del patto del Nazareno e si è rimarcato del fatto che sia aleatorio, quasi ipotetico. Sì. Noi vogliamo che il dibattito sulla Presidenza della Repubblica venga spostato nelle sedi istituzionalmente preposte, cioè il Parlamento, e quindi tutto questo parlare, accordarsi, segreto, non segreto, francamente non ci appartiene. Noi facciamo le nostre cose online, selezioniamo in funzione dei desideri dei cittadini chi possa essere degno di ricoprire una carica così importante, e poi lo sottoponiamo al giudizio del Parlamento tutto, perché questo è il valore dell'istituzione, rispettare la stessa, evitando che ci si parli addosso inutilmente, come troppe volte ormai avviene, perché altrove si realizzano accordi che non possono essere pubblicizzati. Noi vogliamo, nel rispetto dei cittadini, che tutti abbiano la possibilità di capire e pertanto di giudicare. Le nostre scelte potranno essere esemplari, potranno essere criticabili, ma comunque sono sottoposte. Almeno i cittadini continuamente... sono sottoposti al vaglio della gente. 24 mattino. Paese, secondo lei è pronto per un Presidente della Repubblica donna? Ma io penso che da tempo, il paese in molte occasioni è più avanti della politica, e nel nostro paese ci sono tante donne autorevoli che hanno delle storie veramente significative, e dunque è giusto che anche queste donne possano essere considerate. Il paese è pronto, è Laura Boldrini, Presidente della Camera, che chiede un Presidente che succederà poi a Giorgio Napolitano donna. Siamo parliamo con l'onorevole Maurizio Bianconi, Forza Italia, col senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Bianconi, per lei è pronto? Le piace questa battaglia? Anche lei non è mai tenero con Laura Boldrini. Faccio bravo adesso. No, sono bravissimo, dico che prima mi ha cercato una persona capace, poi se donna meglio e bene per la politica. E ce ne sono di capaci anche donne però nella politica. Non lo so, vedremo. Insomma, no. Però la Boldrini è, stessa. Il presupposto è che sia bravo, capace e rappresentativo. Se donna meglio. Ora io faccio presente che le donne sono già segretari di tutti e due i sindacati. C'è molti ministri validi. Sì. Nelle istituzioni c'è già la Boldrini, che però non è che ha fatto una gran pubblicità alle donne nelle istituzioni, dice. Insomma, ecco, però va bene, ecco, insomma, non è che abbia non capisce, diciamo, lo sposare questa battaglia prima donna. Queste sono un po', cioè, sono anche queste sono armi di distrazione di massa, ecco, insomma, se ecco. Ci sono donne brave, oggi la politica le manda avanti, le sta mandando avanti, c'è tutta una bella corrente sostanziosa che le manda addirittura anche nella Corte Costituzionale le donne, sì. Cioè, prima bisogna essere donne e poi se siamo bravi meglio, gli uomini tutti imbecilli. La regola è che prima si manda avanti quelli capaci, anziani, giovani, sì. Donne, uomini, e poi se sono donne e uomini, e dopo se magari a parità di abilità c'è una donna e un uomo in questo momento. Vabbè, ma non credo che Laura Boldrini faccia una battaglia per una donna comunque, ma una donna sottintesa lei è la prova provata che una donna comunque va avanti. Ah, ecco. Allora, secondo l'onorevole Bianconi, che è con noi, Renzi vuole andare a votare, quindi Forza Italia politicamente non deve fare l'errore di offrire una legge elettorale bella e pronta. Secondo il senatore Nicola Morra, che è qui con noi, del Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle invece vorrebbe andare a votare. Allora vorrei chiedere a Chicco Testa, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Chicco Testa, che Bianconi ha definito un imprenditore del PD, questo prima della pubblicità, che comunque era lì alla cena con Renzi, e Testa, che vuol fare Renzi? Renzi invece, perché tutti cercano di capire cosa ha in mente il Presidente del Consiglio, vorrà andare mica a votare? Ma intanto le cose mi pare che si complichino molto con queste annunciate dimissioni di Napolitano, perché mi sembra difficile, adesso io non sono un esperto di percorsi istituzionali, ma mi sembra che adesso il primo appuntamento, se viene confermato tutto come mi pare, sarà quello. E dopodiché che fai con un nuovo Presidente della Repubblica? Sciogli il Parlamento come primo atto, prima questione. Seconda questione, onestamente io credo che Renzi, Renzi ha due possibilità per andare alle elezioni: o andarci dopo aver governato e aver ottenuto qualche risultato, o andarci dicendo non mi fanno lavorare. Ora, il secondo argomento è stato usato da molti e non sempre ha avuto successo. Io credo che sia sincero quando dice ho bisogno di andare avanti e di fare dei cambiamenti, perché questo sarebbe il modo per lui per presentarsi alle elezioni, sì, con un bilancio positivo. Però l'unica cosa che può dire è non mi fanno lavorare in questo momento, che altro sì, può però, dire? È un argomento già molto usato, questo qui è stato usato da molti, capito? Ai cui gli italiani tendono a rispondere hai voluto la bicicletta, adesso pedala, capito? Per cui non è un argomento fortissimo. Certo, siccome gli italiani vedono tutte le resistenze che ci sono nei confronti del cambiamento, dai sindacati ai magistrati, ai dipendenti pubblici, eccetera, eccetera, questa linea gli potrebbe dare un po' di consenso. Vabbè, però di queste cose venerdì non ha parlato ovviamente durante la cena. Ha parlato delle cose che vuole fare, che sono note. Ma si può dire quanto ha pagato Chicco Testa per questa cena? 1.000 euro? Guarda, io ho preso un tavolo intero, l'ho preso con l'azienda di cui sono amministratore delegato, e quindi eravamo in 10. Quindi 10.000. Esatto. Ma e va tutto bene così? Cioè, nel senso, è una roba un po' all'americana, qualcuno l'ha criticata. Ma certo, soprattutto c'è un elemento, guarda. C'erano tante aziende lì, no? Ora, se si possono dare varie interpretazioni, certo, magari anche quella che in questo modo chi ha versato 10.000 euro sa che se fa una telefonata verrà ascoltato, ma può essere ascoltato, diciamo. Ma la cosa che mi fa piacere è che la gente non si nasconde più quando dice partecipo a una cena di finanziamento di Renzi o partecipo a una cena di finanziamento di Berlusconi o di qualcun altro, che è un costume, insomma, io per lavoro ho frequentato e frequento qualche volta gli Stati Uniti ed è facilissimo trovare i miei colleghi imprenditori seduti allo stesso tavolo, uno repubblicano e l'altro democratico, che si confrontano e dicono: ma tu hai versato al Partito Repubblicano? Sì, io ho versato al Partito Democratico, e non sono nemici, sono persone che hanno idee. Ma infatti è molto americana, testa, però chiedo subito al senatore Morra, che magari avrà qualche modo di criticare questo tipo di... c'è qualcosa che non va in queste cene, Morra? Vede qualcosa che non va in queste cene di fundraising? Beh, guardi, se posso fare una battuta, meglio queste scene che le scene eleganti, di cui si ragionava qualche tempo fa. Però mi lasci dire, io sono dell'avviso che la politica non dovrebbe far cene per pochi intimi, anche perché francamente 1.000 euro per cenare penso che pochi italiani se li possano permettere. Senza dubbio. Io credo che il vero politico dovrebbe stare in mezzo alle persone, magari appunto in un mercato rionale, in un pronto soccorso, all'università, per confrontarsi con le esigenze di tutti i cittadini, sia quelli che possono dar 1.000 euro al partito in cui evidentemente credo, sia quelli che magari ci credono pure ma non hanno questa capacità, perché soltanto in questo modo si può dare ascolto alle voci profonde del paese. Il paese, e questo lo sanno sia Bianconi che Testa, il paese sta vivendo una crisi economica e sociale lacerante, per cui sarebbe stato per esempio divertente e rivoluzionario proporre una cena di finanziamento ad 1 euro a testa, per indicare che proprio si voleva allargare la base, ma in questo modo tu restringi. Ma qui nasce come raccolta fondi, cioè si è detto il finanziamento ai partiti, e avete fatto voi una battaglia giusta a mio modo di vedere, a dire dottor Milan, noi abbiamo un principio: accettare donazioni di importo limitato da tantissimi, ma appunto perché di importo limitato, perché in questo modo nessuno potrà, appunto come si diceva, avendo alzare pagato 10.000 euro, qua tutti quanti dobbiamo ricordarci che l'eguaglianza si costruisce anche attraverso questi passaggi, per cui magari non si fa una sola cena, se ne fanno 100, ma d'altronde il compito dei politici è quello di mettersi a servizio dei cittadini, la sovranità, torno a ripetere, è dei cittadini e non dei politici che per delega ritengono di poter fare come vogliono. Allora, dobbiamo sempre ascoltare le persone. Ci sono anche tante chiamate, devo andare al traffico e poi anche qualche ascoltatore, state con noi. 24 mattino. Allora, l'ultima parte di 24 mattino, sentirei subito Anna Maria, ci chiama da Napoli. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Eccoci. Dica. Innanzitutto mi volevo complimentare perché da quando vi ho scoperto come radio, io dormo poco, io sono, siete non ci mia abbandona compagnia. Mai. Non ci abbandona mai. Molto professionali, molto simpatici e molto professionali. Seconda cosa, inerente all'argomento, volevo dire tre punti molto brevemente perché conosco i tempi, i tempi delle interviste. Allora, la prima osservazione la volevo fare al senatore del Movimento 5 Stelle, dove dice che non sono panchinari, però sono dei portavoce, perché loro non assumono d'iniziativa nessuna opinione se non vengono prima benedetti da Casaleggio e da Grillo. Questa è la prima critica che faccio. La seconda osservazione per quanto riguarda il Presidente della Repubblica è che Dio ce lo conservi e che lui decida ancora un po', perché se non ci fosse lui saremmo andati a scatafascio da parecchio tempo. Una donna sì, però che abbia un po' più di sorriso della Boldrini, che è molto professionale, però voglio dire, io da buona partenopea e donna del sud, che sorrida dire, un po' di più, sorrida un po' di più, ma ce ne sono. Io sono una donna di sinistra, però molto moderata. Va bene, Anna Maria. Vorrei dire a Renzi che praticamente se avesse fatto una patrimoniale seria e avesse cercato i soldi da qualche altra parte e non dalla gente di Forza Italia, avrebbe avuto più alleati e non avrebbe paura. È ben di sinistra, parla come la Camusso. Tra poco faccio rispondere anche al senatore Morra a questa accusa. Testa, una bella patrimoniale ci vorrebbe, come dice la Camusso, dice Anna Maria. Patrimoniali ci sono già in Italia, ci sono le tasse sulla casa, ci sono ci sono tante altre cose, c'è il 3% di contributo di solidarietà che non è poco per tutti coloro che guadagnano più di 70.000 euro. Io non lo so, sapete quante persone in Italia, ahimè, dichiarano di guadagnare più di 100.000 euro all'anno? Poche. Qualche migliaio. Sopra i 200.000 siamo alle centinaia. Insomma, una bella lotta all'evasione fiscale, magari. Questa è la cosa fondamentale, perché poi tassare la ricchezza finanziaria non è semplice, perché i capitali vanno dove, dentro l'Europa, come dimostra il caso Lussemburgo, vanno dove vogliono, come vogliono, eccetera, eccetera. E poi sono gli effetti recessivi, perché comunque le tasse che le metti sui poveri, che le metti sui ricchi, hanno sicuramente, certo meglio metterle sui ricchi che sui poveri, ma hanno sicuramente un effetto recessivo. Quindi bisogna pensarci bene. Sentirei Marco da Firenze, poi raccogliamo così un po' di domande. Marco, buongiorno. Allora, molto velocemente, allora, il presidente eletto dal popolo, perché penso sia la forma di democrazia più alta. Lei vorrebbe il presidente eletto dal popolo? Ah, indubbiamente. La Boldrini, una donna sì come presidente, ma non la Boldrini, perché per me, oltre ad essere inefficace, anche politicamente scarsa, e poi non è un personaggio. Cioè, si è sempre vantata di aver fatto qualche cosa per gli altri quando era commissario di rappresentanza. Cioè, io ho dei colleghi che vanno in Africa a aiutare bambini e non dicono nulla a nessuno, e lo fanno tutti gli anni. Ora c'è un po' più problemi per il discorso d'Ebola, ma gliene potrei portare diversi. Insomma, non le piace come spessore politico. Assolutamente. Poi l'ultima cosa vorrei, allora, voglio salutare l'onorevole Bianconi per l'agume politico che è fantastico. E poi voglio dire un'altra cosa, questo arriva al Movimento 5 Stelle e eventualmente a Salvini. Facessero una consultazione online per quanto riguarda se si vuole stare in Europa a queste condizioni. Sì. Con questo vi saluto. Va bene, allora Bianconi e poi Morra. Bianconi, vabbè, la Boldrini non ha riscosso nelle due nostre ascoltatori, ascoltatrici, grande successo, vabbè, quindi questa la archiviamo così. Ma come dire, cosa succederà adesso? Perché dici di distrazione di massa queste tematiche? Perché Renzi ha promesso molto, e fra quello che ha promesso e ha fatto vedere con le slide e quello che invece è dentro la finanziaria c'è un mare di differenza, e quindi detta l'agenda, e dettando l'agenda fa le armi di distrazione di massa. Guardate che Matteo Renzi non è quello scemo che sembra guardarlo in viso, perché c'ha la faccia un po' a Mr. Bean, è un duro, è una persona che ha insomma gli attributi e sa bene come muoversi nel mondo della comunicazione, e quindi sa fare, sa dettare l'agenda, ha molta stampa dalla sua parte, ha televisioni importanti dalla sua parte, non escluse quelle di Mediaset, e quindi sa come muoversi. Senta, ma le chiedo questo, da tesoriere del PDL, quale lei è? Che ne pensa delle cene di Renzi, visto che testa? Penso che sia l'unico modo per finanziare il partito in queste condizioni, ma provoca tutte le strutture che ha detto il senatore Morra. Può alzare il telefono io ho fatto a suo tempo un tweet in cui ho scritto: gli italiani hanno capito come non sprecare i soldi, vanno alle cene di Renzi e non vanno più a quelli di Berlusconi, perché la famosa telefonata che diceva Testa è quanto mai vera nel mondo degli affari in Italia, e per quello che molto spesso ci sono molto più prenditori. Cioè, questa è la questione Testa, l'accusa è dire uno mette 10.000 euro perché poi domani ci ha dato 10.000. Io faccio politica da una vita, so l'influenza che ha il finanziatore di fronte al finanziatore. Hai capito Testa, se fosse mantenuto il finanziamento pubblico in termini più equi, sarebbe stato meglio. Staremmo. Testa, ripetiamo questo, che poi devo dare la parola a Marco. Ma guardi, no, intanto PD, quel che mi risulta, di cene ne fa tante a tutti i livelli. Ci sono centinaia di festival dell'unità in cui ci si può andare e mangiare con 20 euro e finanziare il PD in questo modo. Secondo, io sono favorevole all'abolizione del finanziamento pubblico. E ricordiamoci tutte le polemiche che abbiamo fatto contro questo. Sì. Terzo, se fossero cene per 10 persone, ma quando ci sono 2.000 persone tra Roma e Milano, se tutte telefonassero queste 2.000 persone, l'effetto sarebbe pari a zero, capisci? Quindi, evidentemente, essendo in tanti si annullano. Non faccio il tempo al telefono. Essendo in tanti si annullano. Cosa che non mi risulta. No, però un minuto e mezzo. E poi non capisco perché Guardi, io non avevo bisogno di andare a cena, diciamo, se voglio avere un accesso a qualcuno del governo, ma c'è anche un elemento di convinzione. Essendomi battuto per l'abolizione del finanziamento pubblico, trovo doveroso da parte una qualche mia formula qualche ci deve cosa, essere. Dice, però un minuto per chiedere. Conosciamola, per favore. Devo chiudere in un minuto. Senatore Morra, no, lasciamo stare la questione, l'accusa, tanto ve la fanno mille volte, siete portavoce imbeccati da Grillo e Casaleggio e voi dite non è vero così. Ma invece la questione che mi interessa, l'ascoltatore che diceva il sondaggio sull'Europa, lo farete online? Ma guardi, noi abbiamo promosso una legge di iniziativa popolare per cui a breve inizieremo a raccogliere le firme, in virtù della quale chiederemo che venga ripensato complessivamente il nostro stare nell'unione monetaria e poi se il Parlamento non dovesse valutare tutto ciò trasformeremo queste firme in firme per un referendum. E noi diciamo che con questa Europa noi stiamo tradendo appunto lo spirito con cui i padri fondatori dell'Europa avevano pensato ad un sistema di relazionamento fra nazioni che superassero le ingiustizie. Qua mi sembra che l'Europa, per esempio con i greci, ma anche con altre popolazioni, abbia usato degli strumenti che dovevano compensare, che dovevano equilibrare, semplicemente per acuire le distanze e le differenze. Quindi questo come mi lasci dire, perché questo è un tema su cui penso tutti si debba ragionare. Noi abbiamo introdotto la stessa moneta, ma non abbiamo introdotto le stesse politiche. Ecco, fiscali. Ma no, si fermi qui perché sennò sforo. A domani. 24 mattino.